Esatto. No, non gli piace proprio. E niente, noi qua cerchiamo di intrattenere. Come vedete, questa è una di quelle puntate, non sappiamo cosa dire e non c'è neanche la musica. Ce l'ho. Non è vero, perché lui ce l'ha. Giusto, eccola. Non sappiamo cosa dire. No, proprio okay. Tutto come una volta. Oh, finalmente. Questo è il coxo che piace a me. Basta, ospiti, basta. Infatti. Oh. No, non è vero. No, in realtà abbiamo un sacco di cose da dire, tra cui che è uscito Linea Gialla, l'album di esordio del duo toscano Una da Sola. O si dirà Una da Sola, chissà. Se fossero romani sarei sicura della seconda, essendo toscani forse... Chissà. È uscito in tutte le piattaforme digitali dal 17 gennaio per la Creme Records e il Picture Records. Gli Una da Sola sono Arianna Lorenzi e Francesco Tommasi, due musicisti della costa toscana che in seguito ai propri studi accademici, ovvero canto lirico e chitarra jazz, decidono di dedicarsi solo al proprio percorso creativo. Grazie al Piccio che ci ha spedito questa scorre. Eccola qua. Ci guardiamo seduti scomodi. Immaginiamo quello che non ci diciamo. Rinunciamo a tutto quello che non saremo mai. Alla fine sapevamo che era l'ultimo. Questa volta non sono io. Restiamo qui. Visto? Bello, siamo tornati ai nostri ruoli, molto in tema anche con il mood metafilosofico mio e di Cinzia stasera, che affrontiamo il nulla con grande spirito creativo, vero già, Cinzia? Già, nascono proverbi, Cinzia sì. Ne ha fatto un altro. Ottimo. Potremmo andare avanti così. Sentiamo. Tutta la quando si toglie qualcosa si crea lo spazio per accogliere ciò che ci aspetta. originalissimo. Cavoli, questo è complicato. È complicato. Ti ho visto corrugare uno dei muscoli mimici del viso. Quando succede qualcosa, si crea lo spazio per accogliere ciò che ci aspetta. Ah, giusto. Ah, ok. Sì, no, al secondo colpo, in effetti. Arriva, si è disteso il corrugatore e Pasquini. No, perché il motivo per cui oggi non abbiamo. Oddio, che cos'è sto rumoraccio? C'era il sottofondo, ma è arrivato anche il sibilo. Sì, aspetta. Ah, sì. Cioè, c'è questo. C'è un rumore. Cioè, il bianco. Ah, vabbè, rumore dicevamo, bianco. Quindi, un rumore bianco. A proposito degli ospiti. No, dicevo che. Ci hanno paccato. Sì, no, no. Esatto. No, doveva venire Andrea Gargiulo di Plug Radio per raccontarci che dal 15 maggio Plug Radio sarà in via Azzogardino. Quindi la concorrenza. Esatto. Cioè, diamo spazio alla concorrenza. Noi siamo sportivi. Siamo generosi. Stavamo per dare spazio alla concorrenza e poi invece non glielo diamo. Non glielo diamo. No. Beh, glielo diamo perché in realtà ci ha mandato. Un po' glielo diamo. Ci ha mandato un audio in cui racconta un po' di. Il comunicato stampa che io ho ricevuto dal comune di Bologna e con cui ho contattato Andrea mi diceva che Plug Radio appunto diventerà uno spazio, cioè è uno spazio di condivisione che dal 15 maggio prenderà posto nei locali di via Azzogardino 18. La console della radio sarà allestita nella vetrina che dà sulla strada, che era l'ex locale 2, per cui salutiamo e baciamo Gabriele Tosi e Fabio Farnè. Salutiamoli, che il loro nome è indissolubilmente legato a quel luogo, come tutti gli ascoltatori di Coxo Spaziale certamente sanno. Infatti, dunque, sarà allestita appunto la console sulla vetrina che dà sulla strada, così da permettere a chi passa di vedere i e le DJ all'opera e collegarsi online alla piattaforma della radio per ascoltare la loro musica. Ma bellissimo. Un patto di collaborazione col Comune di Bologna per la durata di 8 mesi. È un po' come quei ristoranti è per questo che siamo così aperti a Plug Radio, perché intanto sono online e poi durano otto mesi. E noi invece siamo qui. Noi duriamo da 8 anni. Dal 1976, per cui anzi. Radio Città Fucico. Guarda cosa ho oggi. Città Fucico 103.1 FM. Ecco. Fatto sta che il nostro caro Andrea ci ha mandato un audio che ci racconta che cosa succede, però prima Marco Roma, in effetti dobbiamo dare priorità al perché nostro... quando ci sono gli ospiti li interrompi con Marco Roma, infatti, invece quando non c'è nessuno ti dimentichi anche di Marco Roma e non lo trovi. Infatti no, stavo cercando qual era la console, perché oggi non so perché sono un po' assonnato. Oddio, si è spento tutto perché c'è questo clima di nullità. Però devo dire c'è una importante novità in radio, che per me è una novità, non so, voi l'avrete già detta, perché io siccome mi paleso di rado avete parlato di... Qualcuno avrà notato che non si sente il cigolio. Non si sente più il cigolio. Quindi indovinate, ascoltatori, perché non si sente il cigolio di sottofondo. Indovinate. Facciamo Vogliamo pizza. Un audio dove un ci audio spiegano. Un audio dove ci spiegano, esatto. Potrebbe essere dove ci spiegano che Marco Roma non ha voglia di farsi sentire. E si vince un calendario del 2025, anzi la pagina del mese di maggio del calendario 2025, timbrato studio tributarista, ragionier Leonardo De Santis. Il premio lo consegneremo il primo giugno. Cosa state dicendo? Non capisco. Stiamo aspettando che tu riesca a reperire i tuoi contenuti. Ci sono le stelle così alte, non puoi toccarle. Ma puoi vederle. C'è anche l'aereo. Sentirle nel tuo cuore. Da Marco Roma, buongiorno. Ah, proprio così. Oggi anche Marco Roma è tutto un mood, oggi un mood di così. Questo tipo. Ma l'aereo non era nell'audio di Marco. No, l'aereo è. Ah, è nostro, infatti, è nostro. Come senti, continua. Già. Però anche l'aereo ha assunto un ritmo un po' più. Così, con maggiore dolcezza, un po' più impanata. Siamo in quella zona geografica trattata nel fumetto Volando Basso. Esatto. Ah, ecco. Nel fumetto Volando Basso, che è stato disegnato nel workshop dell'anno scorso, sempre organizzato da Radio Città Fucico. Fumetti Galeotti, che sono il motivo per cui Cinzia la corda è qui infatti, con noi. Esatto. È già stata acquisita in permanenza. Esatto. Comunque, possiamo ascoltare l'audio di Plug Radio, così capiamo che cosa c'ha da raccontare. Facciamo così. Il nostro Andrea Gargiulo, che naturalmente gli ho detto che poteva tornare un'altra volta. Intanto sentiamo Andrea. Ciao Stefano, ciao a tutti, sono Andrea E oggi sono molto felice di essere qui con voi per condividere con voi qualche aggiornamento sui progetti futuri di Plug Radio. E Plug Radio è un collettivo, un'entità che nasce con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento per la scena elettronica a Bologna e in Italia. Il nostro intento è quello di valorizzare sia la scena locale, dando uno sguardo ovviamente a quello che è tutto ciò che ci circonda a livello nazionale e internazionale. E diciamo che dopo un primo periodo di avviamento che è iniziato nel 2022, adesso stiamo entrando in una fase nuova, un po' più strutturata e più ambiziosa. E partendo dal discorso che mi chiedevi, no? E, diciamo, la grande novità di questo momento è che riapriremo ufficialmente il nostro spazio in Azzo Cardino, nel cuore comunque di Bologna, e sarà una sede completamente rinnovata, diversa rispetto al concept che avevamo precedentemente, e pensata per ospitare delle dirette audio video, showcase, talk e contenuti editoriali. Diciamo che sarà uno spazio molto ibrido tra studio, club e piattaforma culturale, anche perché comunque sarà uno spazio molto più piccolo rispetto a quello che era lo spazio che avevamo in via Cartoleria, diciamo. E comunque il nostro obiettivo è molto chiaro: rendere Plug Radio un punto di incontro per artisti, promoter, ascoltatori o comunque chi è innamorato, diciamo, della musica elettronica. E il nostro deve essere un luogo dove si fa musica, ma anche dove si creano connessioni e si condividono idee, si costruisce la cultura. E accanto alla programmazione musicale lanceremo anche una serie di contenuti editoriali come interviste, rubriche, panel, podcast, workshop anche, e diciamo che sono contenuti che vogliamo raccontare per le storie che ci sono dietro, i suoni, e approfondire anche le tematiche un po' più urgenti sull'evoluzione comunque del mondo del clubbing, con un taglio che comunque sia diciamo accessibile ma mai superficiale. E poi stiamo cercando di creare anche un forte interesse in relazione a quelle che sono le arti visive e digitali, e quindi vorremmo portare avanti anche dei progetti con artisti visivi, VJ, performer e creativi, per integrare, diciamo, nuove forme di espressione nei nostri contenuti, quindi che è comunque una chiave sempre per noi molto importante. E l'idea è di creare un linguaggio visivo distintivo che ci accompagna e valorizzi la musica, e ovviamente poi siamo anche avviando delle collaborazioni con collettivi, etichette, club, artisti locali, in modo tale che comunque creiamo un legame forte con tante realtà, sia locali che non, perché comunque è fondamentale per noi, diciamo, rafforzare il legame che c'ha Plug Radio con il territorio, creando una rete forte, creativa e anche sostenibile. E comunque con il fatto che adesso potremmo avere una disponibilità di uno spazio fisso, potremmo anche dedicarci di più all'organizzazione di eventi non solo a Bologna ma anche in altri luoghi in Italia. Questo ci permetterà comunque di espandere la nostra visione e portare l'identità di Plug Radio anche al di fuori del contesto radiofonico, costruendo eventi pensati come vere esperienze culturali, musicali ed artistiche. Inoltre stiamo anche lavorando alla costruzione di una struttura interna più solida e professionale, e ci stiamo, diciamo, ristrutturando, mettiamolo in questo modo, e creare un team che sia coeso, che abbia una visione comunque comune, e creare un'energia unica e molto forte, che ha una grande voce all'interno di quello che comunque è l'idea e il progetto di Plug. Diciamo che questo è solo l'inizio di un progetto molto ambizioso. E comunque l'esperienza che verrà fuori da Plug Radio Azzo Cardino sarà sicuramente uno spazio vivo, libero e dedicato a chi ama la musica elettronica, le arti digitali e le visioni contemporanee. Diciamo, penso di aver fatto un po' la sintesi di quello che è il nostro pensiero su quello che sarà il futuro di Plug. Intanto vi ringrazio per la disponibilità e per l'ascolto, e continuate a seguirci. Ciao e buona serata. E grazie a te, allora, e grazie Andrea Gargiulo. E adesso Stefano ci racconta qualcosa sul logo di Plug Radio. Ah no, è un bel logo. Sì. Ce lo dicevi in fuori onda. È un bel logo. Non capisco chi di voi fracchia così. Ah sì, siete voi, infatti. Siamo noi, quindi no, dobbiamo magari è solo da dargli una botta al microfono. No, ci pensiamo dopo. Ecco, prova a fare così. No, non è successo praticamente niente. Non è successo, però è andato via. Non lo sento subito. No, infatti è andato via. No, questo è questo spaziale. Ah, hai capito. Ah, creatività generica. Ci stava. Ci sta. Accanto alla voce generica di Emily, non so se parlerei del logo. O lo facciamo? Ah, sì, certo. Parliamo della... Ah, beh, non lo so. Vabbè, io non ne parlo. Io non ho altro da dire sul logo. Solo, cioè, basta andare su plugradio.it e trovate il logo di Plug Radio. E a me è un logo che secondo me è molto ben fatto. Interessante, curioso e stimolante. Da ex grafico. Esatto. Allora, se lo dice Pasquini vuol dire che è interessante, perché è un giudice severo, soprattutto quando si tratta del lavoro degli altri. Quando si tratta della grafica degli della altri. Della grafica degli altri, esatto. Direi che non ti ho quasi mai sentito dire ciò. Quindi adesso sono incuriosita, perché io non l'ho ancora visto. Tu l'hai visto? No. Sono cascata sul plaganale e ho detto, ok. È come quei giochi eccolo, sì, allora sì, l'ascoltatore attento adesso ha capito di cosa sta parlando. Esatto. E va bene. Ed eccoci qua. Sì, interessante. Non sappiamo cosa dire. No, ma quelle bellissime puntate di una volta in cui si doveva riempire tutta la trasmissione, magari c'era anche il lockdown, e allora ci buttavamo in discorsi filosofici, in pareri generici sull'arte, chissà chiacchiere da bar. Stupidaggini abbiamo detto. Adesso diciamo che non abbiamo mai riascoltato. Oggi. Approfittiamone. Sì, no, è vero, perché in effetti sono i 24, abbiamo 6 minuti da riempire. Allora io adesso lancio questo tema. Ho anche picchiato le manone sul tavolo. Il più immersivo così. Perché io e Pasquini, separatamente, ognuno per conto suo, siamo andati a vedere nel periodo pasquale le grandi mostre. Le grandi mostre. E allora volevamo un attimo aprire uno spazio di riflessione sui grandi artisti che fanno le grandi mostre, sugli artistar. Io sono andato a vedere Tracy Emin a Palazzo Strozzi sabato. E io sono andata a vedere Ai Weiwei a Palazzo Fava venerdì. Fava a Bologna, Palazzo Strozzi a Firenze. Malgrado tu insegni a Firenze, io che insegno poi, a Bologna. Vi siete scambiati che di poi, città. Che okay. Poi basta aspettare, perché comunque la mostra di Ai Weiwei prima era a Palazzo Strozzi e può essere che la mostra di Tracy Emin poi arrivi a Palazzo Fava. Quindi potrebbe starci. Ci potrebbe anche se stare. Devo dire che la mostra di Ai Weiwei era un'altra, quella di Palazzo Strozzi Tu le hai viste tutte e due? Non le ho viste tutte e due, ma siccome sono un... C'è tipo un elicottero stavolta fuori. C'è l'elicottero. È la nostra musica di sottofondo. Le nostre dichiarazioni. È fatta così. Io comunque sento ancora il pizzichino. Il pizzichino non c'è più. Io lo giuro. Sento. No, è la musica, sì. Forse ho una pipene. È la musica di sottofondo di oggi. È fatto così. Che ha un po' di pizzichino, in effetti. No, in realtà hai ragione, si sente un po' di pizzichino. E siete voi, in effetti. E siamo noi. Stavolta io ho nascosto aereo. Telefono non credo nel plugin. Che fare con il parlavamo di mostre. Questa battuta inaspettata mi ha lasciato un po' interdetto, inaspettato dalla Chiara Perro. Comunque inaspettato anche che Giffo, ovvero Fuga per Art, oggi ci stia ascoltando e mi messaggia. Perché lui sapeva che questa sarebbe stata una puntata una come ai vecchi tempi. Esatto, quindi se lo sentiva. E dunque mi chiede tutto quello che so di Cinzia. Peccato che non so nulla, quasi come? Nulla. Come non Cinzia. Sai quasi nulla di Cinzia? So molto poco di Cinzia. Cosa vuole sapere di me? No, lui è interessato solo agli aspetti psicosessuali, questo te lo dico subito. Quindi. Quali sono le domande specifiche? Perché non andrei così a braccio. Mi ha chiesto quanti anni hai e anche da quanto tempo conduci. Poi vabbè, le altre cose non le dico. Le leggiamo. Proporrei un'alternativa alle domande che non sono state dette. Ok. Quindi età? 39 a dicembre. Ah, bello, bel numero. Però gli ho detto boh, tipo 34. Da, no. Sì, poteva, okay, poteva essere. Io ho risposto anch'io così, boh. E li compio il giorno della vigilia di Natale. Ah, quindi wow, 39 dai, portati benissimo. Siamo praticamente no, allora io ho fatto 30, no, coetanei, cioè. 38 li ho fatti l'ultima vigilia, la prossima farò 39, era questo il punto. Cioè hai detto il giorno della vigilia di Natale o il giorno prima della vigilia? No, di il 24 Natale. Dicembre, il 24. Sì, sì, sì. Ah, ok, perché no, dicevo che io le compio il 23, per cui ah, okay, siamo, okay, siamo quasi, allora, quasi uguali. Troviamo mia nipote che le compie il 25, e si fa 25, come la Caterina, c'è un 26 all'ascolto, un 26 allora, dicembre. Allora, 26 dicembre palese, ti potremmo coprire tutto l'anno. 94 vogliamo se saperlo. C'è un 26 dicembre e poi un 27 casomai dovessimo trovare il 26, sì, poi l'altra domanda era l'altra domanda da quanto tempo conduci, io gli ho detto boh, due mesi, non so, forse allora, forse un pochino io, di più io gennaio era tipo il primo lunedì di gennaio sono stata ospite, vedi? E tipo un mese, due mesi dopo, no, tipo due settimane, no, dopo, sì, due settimane dopo, assunta, dopo, no, è stato dichiarato assunta, perché si sapeva, esatto, già che ci sarebbe, no, stata infatti, una certa latitanza conduttiva. Esatto. A proposito, si potrebbe anche ipotizzare un remake della sigla, l'ennesimo remake della sigla. No, ma infatti io stavo tentando di ascoltare la sigla. Chi abbiamo messo in questa sigla? Non c'è lei ancora, no? No, non c'è ancora. No, okay. Ci siamo io, Giulia Quadrelli e Mia Daschio su Piei. Ah, ok. E adesso si è aggiunta Cinzia Corda, Lisa Mignemi. E poi, vabbè, ultimamente c'è, sono venuti anche Chiara Selves. Bianca, sì. Bianca Tavelli e Bianca, Iris, no, Gashi, insomma. Bianca avrete notato senz'altro che si circonda di donne il nostro. Fa bene. No, io continuo la tradizione, eroe, di avere una co-conduttrice. Non una, ma plurime. Plurime. A rotazione, quando gli diamo, come dire, buca, sì, arriva l'altra. Succede nelle migliori famiglie. Boxo spaziale. E così, senza dire praticamente nulla, visto che il nulla è il tema della puntata di oggi, siamo riusciti ad arrivare a svalicare la metà puntata e avvicinarci all'angolo delle menzioni. Mm-hmm. L'angolo della menzione lo vogliamo fare subito o vogliamo far precedere due pensieri sulle mostre che abbiamo visitato per Pasqua? Potremmo parlare di Anche il fiume, il nuovo singolo di Dalila Spagnolo. Non dà mai corda, nonostante che ci sia Cinzia Corda di fianco a me. Talentuosa. No. Talentuosa cantautrice leccese, Dalila Spagnolo si distingue sin dagli esordi per l'eleganza espressiva e la profonda sensibilità artistica. E intanto lo facciamo. Volevo parlarci sopra, invece non posso. C'è siccità nella valle del mio cuore, c'è aridità. Qualcuno, qualcosa sta tentandomi alla miseria, alla mediocrità, alla menzogna. Resisto e cedo come un Cristo nel deserto. Conosco la via, mi sento divinamente umana dentro. Dicevamo, nel 2020 conquista il secondo posto al premio Lunezia e partecipa al premio Musica contro le Mafie. Nella primavera del 2025 vince il premio nazionale Folk and World Nuove Generazioni, indotto dall'IUCI Festival. Ad aprile pubblica il nuovo singolo Anche il fiume, brano che segna l'inizio di una nuova esplorazione musicale, un viaggio intimo nel respiro, nell'ascolto di sé e nel riconoscersi umani di fronte alla fragilità e alla mediocrità del vivere. È impegnato questo testo, è molto impegnato. Viaggio intimo nel respiro. Vi racconto anche questo aneddoto. Questo uso della voce lo faceva anche la mia maestra delle elementari, Stella Ripari, chissà. Non credo ci stia ascoltando, non so. Mando un saluto via etere. A tutte le stelle Ripari. Del mondo. Un saluto. Io invece ringrazio Agnese di Pearl Press che ci ha mandato sto pezzo. Avevo paura che fosse già finito, ma non è ancora finito. E i vostri maestri delle elementari come si chiamavano? Paola. Alberto Alberti, il mio. Alberti, la tua Paola, Paoli? Probabilmente, non me lo ricordo più, mi ricordo solo come era vestita il primo giorno di lezione. Perché vedi, nella nuova generazione non si dice più nome e cognome, è solo la Paola, maestra Paola. Sì. E gli si dà del tu. I maestri, però. Noi davamo del lei. Ciao maestra Paola. I maestri delle elementari, però, solo nome, mentre i professori delle medie superiori, nome e cognome, anzi si chiamavano. E allora dici il nome e cognome del professore di matematica delle medie. A Cipigna, vorrei dire la professoressa Azzori, ma non ricordo il nome. Allora, perché? O il nome o il cognome, ricordiamo solo una delle due parti. Perché non si pensando a come si chiamava la Bacchilega, forse Ilde Bacchilega. Se lo ricorda sicuramente. Vinco il primato del nome più originale di insegnante di matematica del liceo, Odmen Zini. Era praticamente un rebus. Un rebus, un anagramma. Odmen. Tra l'altro adesso lo scrivo, voglio vedere, hai letto al contrario, se viene fuori qualcosa. O al contrario o anagrammato potrebbe essere bellissimo. No, perché anagrammato non lo so, letto al contrario è Nemdo. Però non suona bene. Come avvicinare un attimo il microfono a te? A me? Sì, a te. Un attimino. Ecco, così, basta così. E no, quindi? Niente, continua a gracchiare, non so perché il vostro microfono gracchia oggi. Ma niente, ci tiene compagnia perché all'horror va qui, noi parliamo del nulla e lui cerca di riempire l'assenza di ospiti con questo friccico. L'angolo della menzione. Andiamo, imbracciamo il foglione dell'angolo della menzione. Comincio io. Vai tu. Mercoledì 7 maggio, che è dopodomani, abbiamo Flowering Season, una mostra collettiva che raccoglie opere di tre artiste, Federica Gonnelli, Louisis Will e Sofia Neri. È nata in quel momento fragile e potente in cui l'arte smette di cercare e inizia a esistere. Non si tratta solo di maturità tecnica, ma di una presa di coscienza più profonda. L'artista diventa un terreno fertile e la creazione non è più uno sforzo, ma una necessità organica. Tutto questo inaugura a Boa Spazio Arte in via Barberia 24 a Bologna. Alle ore 18, grazie. Giovedì 8 maggio, sempre alle ore 18, apre il pubblico la sesta edizione del progetto espositivo Ex, a cura di Carmen Lorenzetti, che salutiamo. Non è qua stasera con noi Carmen Lorenzetti, perché che salutiamo? Perché non l'abbiamo invitata. Carmen, la prossima puntata? La prossima puntata, beh, la invitiamo dopo l'apertura della mostra. Comunque, promosso dall'Accademia di Belle Arti di Bologna, che mira a riportare all'attenzione del pubblico storia e memoria dell'istituto accademico, attraverso le opere di artisti formatisi al loro interno e oggi riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Quest'anno la collettiva, ospitata fino al 15 giugno 2025 nel Salone degli Incamminati della Pinacoteca Nazionale di Bologna, presenta una selezione di opere di sei artisti diplomati alle Accademie di Belle Arti di Bologna, accomunati dal punto di vista generazionale: Lorenzo Di Lucido, Nicola Melinelli, Gianni Moretti, Andrea Salvatori, Vincenzo Simone e Cristiano Tassinari. Salone degli Incamminati, Pinacoteca Nazionale, via delle Belle Arti 56 a Bologna. Giovedì 8 maggio, ore 18, quindi o l'una o l'altra, inaugura Domani sarà un giorno incerto, una mostra dei giovani artisti dell'Accademia Santa Giulia di Brescia, che mette in evidenza come la didattica possa essere una importante occasione di dialogo con i professionisti del sistema arte e di confronto con il pubblico della città. L'esposizione raccoglie le opere di studenti, degli studenti e delle studentesse del secondo anno del biennio specialistico in arti visive contemporanee dell'Accademia. La mostra è curata da Sophie Labi Galini, Elisa Panza e Martina Pirovano e coinvolge 11 giovani artisti: Davide Bertelè, Emma Castellani, Gaia Elenia Dotti, Matteo Maggi, Cecilia Magri, Michela Mariotto, Emanuele Mini, Daniele Piemontese, Marco Quinzanini, Stefania Seggioli e Lorenzo Giuseppe Tentori. Tutto questo al Museo d'Arte Lercaro in via Riva di Reno 57 a Bologna. Sempre giovedì, sempre alle ore 18, Ascolto i fiori che parlano al cielo, una personale di Silla Guerrini a cura di Azzurra Immediato, e questo è alla Maison La Vignaturra in via dei Sabbioni 9 a Bologna, e abbiamo avuto La Vignaturra ospite qui a Coxo Spaziale, per cui la salutiamo. Ciao Lavinia. Giovedì 8 maggio, sempre alle ore 18, la piccola galleria di via Marsala 31/D ospita Yuna Leonis con la personale intitolata Zout a cura di Elisa Zanta in via Marsala 31/D a Bologna. E naturalmente salutiamo anche Elisa Zanta, che è stata qui ospite a Coxo Spaziale anche lei. Abbiamo venerdì 9 maggio, ore 18, alle librerie Coop Zanichelli, presentazione del libro Mirabile da sfogliare, libri d'artista dalla collezione di Maria Gioia Tavoni. Mirabile o Mirabile? Secondo me manca una I. Però devo dire, spezzo la lancia a favore di Cinzia, perché è scritto Mirabile qua nel comunicatore che ci hanno mandato. Sì, sbagliato. Adesso è sbagliato. E aggiungerei il curatore del libro Paolo Tinti, docente di bibliografia a Unibo, dialoga con Stefano W. Pasquini e Roberto Pinto, libreria Coop Zanichelli in piazza Galvani 1H a Bologna. Che sono io. Che sei tu. Venerdì 9 maggio, sempre alle 18, per cui o venite da me o andate alla Galleria De Foscherari, che è felice di presentare la mostra collettiva Di Traverso, a cura di Enrico Camprini, con opere di Luca Bertolo, che salutiamo, Giuseppe De Mattia, che salutiamo. E Ney Gala, che salutiamo. Eva Marisaldi, che salutiamo. E Liliana Moro, che salutiamo. Il progetto espositivo si propone di mettere in relazione lavori di artiste e artisti di generazioni diverse, non tanto con l'obiettivo di rintracciare linee di ricerca condivise o di abbozzare con esse un orizzonte tematico entro i cui limiti collocare lo sguardo dello spettatore, quanto con l'esigenza di evidenziare una condizione comune. Tutto questo alla Galleria De Foscherari, venerdì 9 maggio alle 18. E in via Castiglione 2B, naturalmente. Dopo me lo rileggo il comunicato stampa, perché in effetti era denso. Cioè, devo rileggerlo. Sabato 10 maggio, però, alle ore 17:30, c'è anche la mia route, presentazione del libro di Beatrice Bonanno. Un incontro promosso da C5 Lab per riscoprire la forza delle parole, delle donne e delle narrazioni capaci di attraversare il tempo. Beatrice Bonanno, filologa e biblista, presenta la mia route, una riscrittura narrativa del libro biblico che restituisce voce e profondità alla figura di Ruth, una donna capace di mettersi in cammino, di abitare la condizione di straniera e di trasformare le passioni esterne in scelte che la mantengono fedele a se stessa. A dialogare con l'autrice saranno Laura Bigoni, filologa, biblista e attrice, e Lucia Bandini, autrice, traduttrice e redattrice. Insieme intrecceranno letture e riflessioni che mettono in relazione il testo, la Bibbia, la vita e il presente. A Serendipo, C5 Lab, vicolo De Facchini, C5C, mi sono impappinata, Bologna. No, continui a dire C5 mentre è 5C. Non lo so perché mi viene così, sono un po' dislessica. Io invece mi inserisco con sabato 10 maggio alle 17:30, ovvero alla stessa ora e non molto lontano, apre alla V City Terre dell'Occupazione di Luca Capuano a cura di Piero Orlandi. 44 fotografie, non gatti, mostrano le terre degli altri tanti villaggi palestinesi occupati dall'esercito israeliano nel 1948, dai quali gli abitanti furono trasferiti nel campo profughi di Deisha, innestando una spirale di violenza che, ahimè, non si è mai più fermata. Tutto questo alla V City, però non ho l'indirizzo. Dov'è l'indirizzo? Ah, eccolo lì, è piccolissimo. Aiuto, dov'è? In via Santa Apollonia 19A a Bologna. Sabato 10 maggio alle 19:30. Squadro. Da questo lato siamo persi. Tutte dislessiche, cioè tutto. Vabbè, squadro. Anche da questo non scherziamo. Squadro inaugura Bazar di Francesca Germandi e Gianluigi Toccafondo con la straordinaria partecipazione di Valeria Sturba e Vincenzo Vasi. In mostra disegni originali, ceramiche, serigrafie e una performance live di due dei musicisti più eclettici della scena contemporanea italiana. Squadro, stamperia, Galleria d'Arte, via Nazario Sauro 27B a Bologna. E l'ultimo, lunedì 12 maggio, andiamo direttamente a lunedì 12 maggio alle ore 20:30, la Basilica di San Petronio di Bologna ospiterà un evento straordinario, un concerto per pianoforte e voce della cantautrice e artista multidisciplinare Roberta Giallo. L'evento si inserisce nell'ambito dell'esposizione dell'opera L'ombra, la città degli uomini, dello scultore catalano Joan Crous, ispirata alla celebre Guernica di Picasso. Appuntamento alle ore 20:30, l'ingresso è libero e gratuito. San Petronio, Piazza Maggiore Bologna, ci sarà un po' di gente. Ci sarà un po' di gente. Lunedì alle 20:30. Tra cui forse anche Stefano W, che sì, forse pacca gli ascoltatori. Manda una replica perché non vuole perdersi Roberta Giallo. È un giallo. In realtà volevo approfittare per farvi sentire Lulu, che è un pezzo di Roberta Giallo. Prego. Nel mio servizio da te è apparsa una macchia scura che non va più via. Io ci ho provato in tutti i modi ma non se ne va. Lei vuol farmi compagnia, essere amica mia. Ogni mattina laggiù un gatto miagola che pare che strilli di più. Io condannato a morte ma è soltanto Lulu che cerco un po' d'amore, un po' di comprensione. Non ci sta nessuno a parte il cielo che è un quadro sempre vivo, guardo le nuvole che amano comparire per poi scomparire. Che gioco è questo qua, farsi vedere, innamorare e poi scappar via, ho il maledetto vizio di affezionarmi alle cose proprio come alle persone, anche a loro. Degli umani io voglio scappare via, via, ma nel condividere con te i pensieri scopro una magia. Vergognarmi, cioè voglio dire, una che ha una voce così, come si fa a venire in radio a fare la trasmissione anziché andare a sentire Roberta Giallo, una nuova bimba, sono qua. Impossibile. E dicevamo che si potrebbe fare una diretta, ma bisogna fare un crowdfunding. Ciao, siamo le Inky Fingers e questo è Coxo Spaziale. Era un po' che non sentivamo le Inky Fingers che ci dicevano che ci dicevano, è... ci ricordano che questo è coccio spaziale, è il coccio spaziale di una volta. Però Stefano, tu hai perso un po' di smalto, eh? Prima eri più pronto al cazzeggio, devo dire la verità. Mm-hmm. Sì, adesso no, sei diventato tutto serio. Sto invecchiando. Stefano Pasquini vuole parlare delle mostre. È tutto il tempo che vuole parlare delle mostre. Delle mie mostre. Delle sue no, mostre. Non ne ho di mostre. No, delle mostre alle quali avete partecipato, cioè lo voglio sapere io più che altro, perché sì, voi avete fatto qualcosa in questo periodo di festa, no? Voi avete partecipato, lo dicevate prima. No, non abbiamo partecipato, siamo andati a vedere, avete visitato, da spettatore semplice. Io ho visto, appunto, dicevo, io sono andato a Palazzo Strozzi a Firenze. Palazzo Strozzi a Firenze. Ho incontrato Dovanotti e ci siamo salutati. No, dove c'era la mostra di Tracy Emin, che non ha Z invece, e no, mi piace per quello, devo dire, come artista, sì, infatti è facile da pronunciare, no, devo dire che è una gran bella mostra, per cui non posso che consigliarla. A me piace moltissimo come dipinge, mi è sempre piaciuta come artista, e come anzi, ti sono sempre piaciuti tutti i Young, gli YBA, YBA. Esatto. Sì, no, in effetti una volta le ho rubato una sigaretta una volta a una, e adesso dove a una, sta a una festa sigaretta? del l'hai messa in una vetrinetta, secondo me l'avevo tenuta, però poi poi in un momento probabilmente di panico, probabilmente si è persa, cioè la cicca naturalmente, perché la sigaretta l'ho fumata, però mi sta venendo il dubbio che me l'abbia rubata lei invece, cioè me l'abbia scroccata lei, non mi ricordo, perché era una festa, posta. Non è esattamente allora la stessa cosa, non, perché secondo me lei non ha messo in una teca la sigaretta. Ah no, sì, cioè su questo qualcosa no, mi dice, non ho assolutamente che dubbi, la fumata e basta. Mentre invece da qualche parte dovrei avere ancora una sigaretta che ho scroccato a Gary Hill a New York. Hai capito? Quindi tutte le sigarette britanniche sono nello studio di Pasquini ora. Infatti, no, è Gary Hill americano. Ah, pardon. Scusa, no, ma figurati, basta mettere i puntini sulle i. No, certo. Comunque sì, la mostra merita di essere vista, anche se non conoscete Tracy Emin. Sì, decisamente, perché probabilmente una delle artiste più sincere che ci siano in giro. Beh, adesso queste classifiche, una delle artiste più sincere, che cosa vuol dire questa cosa? Che lei è sempre stata molto aperta e sempre molto sincera, appunto, perché infatti, cioè, devi sapere che infatti c'è questa fantastica intervista. Allora, vediamo con, qual è un artista invece insincera, cioè che secondo me è non sincera. Chi è un artista insincera? Un artista insincera, adesso continuo a pensare alle YBA, per esempio Gillian Waring, non è altrettanto sincera. Poi magari anche Rachel, lei è sincera. Rachel White sicuramente non è altrettanto sincera. Non è altrettanto sincera, però io la trovo abbastanza interessante lo stesso. No, beh, certo, no, ma infatti non significa che non sia interessante, no, ma infatti, no, no, appunto, anzi, fra l'altro, negli anni 90, quando lei stava diventando famosa, appunto, lo dice anche in questa intervista con Galanzino, che è il curatore della mostra, che l'intervista, fra l'altro, si trova su YouTube e merita anche quella di essere vista. Lei dice: ma perché la gente mi pensava che io fossi un po' cretinetta. E in effetti è così, cioè io lo so che la gente pensava che lei fosse abbastanza così un po' scemotta negli anni 90. Poi magari lo pensa ancora, fatto sta che lei se n'è giustamente sempre fregata e è andata avanti come doveva andare e ha fatto del lavoro che spacca. Brava. Sì, bene, infatti. E noi complimentiamo Tracy Emin nella sua sincerità. A Firenze. E qui a Bologna arriverà o è già stata? Scusa, no, non lo sappiamo se arriverà, però siccome ci sono un po' queste grandi mostre che poi girano per le grandi città che realtà sono immerse in processi di turistificazione, vero? Tanto per... Da che ne so, quella mostra lì dovrebbe andare, non mi ricordo se la Tate di Liverpool o addirittura la Tate Modern. Hai capito. Allora vale la pena, prima che venga deportata fuori dal confine nazionale. E fino a quanto dura, te lo ricordi grosso modo? Beh, no, ancora un bel però, po'. Dal 16 sì marzo al 20 luglio, Palazzo Strozzi. Abbiamo tutto il tempo per andare a vedere Tracy Emin. Sì. Mentre invece non abbiamo più tutto il tempo per andare a vedere Ai Weiwei, che credo sia chiusa. È proprio chiusa. Penso che chiudesse presto, giusto ieri, forse. Non metto la mano sul fuoco perché non mi voglio scottare, ma contributo scritto perché non riesco. Cosa devo fare? Che scrivere? Devo scrivere così? Sì. Devo scrivere Ai Weiwei. Stai ascoltando Coxo Spaziale. nel caso e quindi sì, è anche un po' inutile parlarne perché tanto non si può, non la si può più vedere, però devo dire che a me non è dispiaciuta, non mi ha dispiaciuta, nonostante ero andata con dei pregiudizi forse e mi sono dovuta ricredere. Ah, perché è iniziata il 21 settembre, sì, fino al 4 maggio, che non è una novità. Io invece ero andato senza pregiudizi e invece devo dire che soprattutto curatorialmente mi ha lasciato un po' così. Poi detto questo, il curatore è lo stesso della mostra di Tracy Emin, per cui così. Però devo dire che gli spazi di Palazzo Strozzi sono molto più facili, diciamo, da gestire che non quelli di Palazzo Fava, che è un bellissimo palazzo, però non altrettanto lineare, diciamo. E tuttavia io ho trovato che fosse anche contestualizzata bene, non so, forse non siamo d'accordo proprio su niente, come al solito. Beh, no, ma infatti, cioè, questo ormai, perché non ho capito perché tu dici che curatorialmente non cosa avrebbe dovuto fare Galeazzino che non ha fatto in questa mostra per essere curatorialmente apprezzato da te? Un percorso. Ma c'è un percorso. Sì. A me io l'ho trovato molto leggibile. L'ho trovato poco. Poco organico, poco nella... coerente anche col lavoro di Ai Weiwei. Forse è questo che mi ha sorpreso, no? Io ho trovato che il titolo era Who Am I, no? E quindi rifletteva sul problema dell'individualismo, visto dalla prospettiva comunque di una persona che non è nata in Occidente e che quindi ha con la prospettiva individualistica un rapporto molto diverso dal nostro e che si trova immerso in queste contraddizioni che sono poi contraddizioni geopolitiche, e mi sembrava che la mostra parlasse di tutto questo, però forse è stata una mia visione. Sicuramente è stata una tua visione. Io vi ringrazio perché il tempo, ahimè, è finito. Davvero? Sì, certo. Ricordiamo solo che oggi era il 5/5/25 e che il 5/5 fa 25. Cavoli, è fantastico. Sì, è fantastico. Grazie a Cinzia Corda e a Chiara Pergola che sono state qui con me. Grazie a Stefano W. Pasquini, Stefano, che naturalmente molestatore. Ci risentiamo lunedì prossimo, sempre dalle 20 alle 21, sempre su Radio Città Fujiko. E come al solito, forse vi salutiamo. Vi in salutiamo, qualche modo. No? In qualche modo ci siamo. Vi salutiamo con la nostra canzone preferita. Che però è ci saremo con Roberta Giallo dal nostro con questo con una diretta dalla radiofonia. Ascoltiamo la sigla. La sigla è sempre Vomito di Speciale Dolore, naturalmente. E niente, è stato bello anche senza ospiti. Anche senza ospiti. Grazie. Mi fa venire il vomito la città. Cosa succede? Qualcosa non va. Noto il dermatologo, vado dallo psicologo, e poi mi viene il vomito, e poi mi viene il vomito, e vado dal neurologo, perché ho livello alcolico, e poi mi viene il vomito, e poi mi viene il vomito, e vado dal neurologo. Prenoto il dermatologo. E poi mi viene il vomito.